Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'incontro tra il premier italiano Mario Monti e quello spagnolo Mariano Rajoy. Monti ha sottolineato l'amicizia fra i due paesi e Rajoy ha sottolineato che tra Madrid e Roma c'è una perfetta sintonia e un'analisi comune della situazione che affligge Eurolandia. La Tobin Tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie, che ha visto l'apertura di 11 paesi europei in un confronto tra la proposta di legge italiana e le esperienze della Francia che l'ha introdotta e dell'Olanda che invece è contraria. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Lunedì 29 ottobre il premier Mario Monti è stato ricevuto dal premier spagnolo Mariano Rajoy in occasione di un vertice italo-spagnolo. Si è trattato del quarto incontro bilaterale tenutosi quest'anno fra i due premier. I vertici europei di giugno e ottobre hanno prodotto decisioni importanti e decisive che hanno dato un segnale forte sulla determinazione dell'Unione Europea a preservare l'integrità dell'euro, ha detto il premier Monti dopo l'incontro. Sentiamolo. I consigli europei di giugno e di ottobre hanno prodotto delle decisioni importanti e positive che hanno dato, io credo, ma ho l'impressione che tutta l'Europa, ma anche tutto il mondo creda, hanno dato un segnale forte sulla determinazione dell'Unione Europea a preservare la stabilità e l'integrità dell'euro. È facile da altre parti del mondo criticare le lentezze delle decisioni europee, noi stessi le critichiamo e le vorremmo più veloci, ma stiamo tutti insieme costruendo qualcosa che nel mondo non era mai stato costruito e bisogna sempre volere di più, operare per avere di più, ma essere consapevoli del miracolo che viene quotidianamente realizzato. Il premier è anche tornato a sottolineare il rapporto di amicizia fra i due paesi, entrambi fiduciosi nel raggiungimento di un accordo al prossimo vertice europeo del 22-23 novembre, che persegua non solo interessi dei due paesi, ma anche l'interesse dell'Europa nel suo insieme. Abbiamo poi discusso col presidente Rajoy del futuro bilancio pluriennale dell'Unione Europea in vista del Consiglio Europeo del 22 e 23 novembre. Italia e Spagna intendono lavorare insieme per il raggiungimento di un accordo che persegua non solo, e ben inteso, l'interesse dei due paesi singolarmente, ma anche quello dell'Europa nel suo insieme. Noi siamo convinti che gli interessi nazionali esistano e io personalmente sono anche convinto che nel caso di paesi come i nostri, certamente come quello il cui governo ho l'onore di presiedere, l'interesse nazionale coincide in grandissima misura con l'interesse europeo, di un'Europa nella quale i nostri paesi diano tutto il loro contributo costruttivo e che poi sentano propria in conseguenza. I momenti di difficoltà, ha aggiunto Monti, possono cementare l'amicizia e la collaborazione fra i due paesi. Io credo, caro Presidente, che i nostri due paesi abbiano attraversato, stiano attraversando e non sono i soli dei momenti abbastanza difficili in questa adolescenza della costruzione europea verso qualche cosa di più solido e soddisfacente. Momenti di difficoltà possono, se si lavora bene, anche cementare l'amicizia, la collaborazione e la voglia di contribuire costruttivamente a questo edificio comune. E io mi rallegro del modo in cui, direi molto spontaneamente, riusciamo a farlo. C'è una perfetta sintonia e un'analisi comune della situazione che affligge Eurolandia, così come sui mezzi e sugli strumenti da adottare da parte dell'Unione Europea. Queste le parole del premier spagnolo Rajoy al termine dell'incontro con Mario Monti a Madrid. Sentiamo anche Rajoy. Per quanto riguarda l'agenda europea, Spagna e Italia sono più unite che mai. Esiste piena sintonia sull'analisi e sulla diagnosi della situazione nell'Eurozona. Abbiamo interessi comuni che difenderemo con determinazione e in modo coordinato, sempre all'interno del contesto dell'Unione. Questi interessi possono essere riassunti in due punti. Il primo, la messa in moto urgente degli strumenti a disposizione dell'Unione Europea per stimolare l'economia, creare occupazione e garantire il finanziamento, specialmente alle piccole e medie imprese. il patto per la crescita e l'occupazione, al Consiglio europeo del giugno scorso, che ha avuto l'appoggio di Italia e Spagna, è la base su cui lavorare per raggiungere questi obiettivi. In secondo luogo, dobbiamo fare di necessità virtù e spingere la riforma dell'Unione economica e monetaria per avere un'Europa più forte, più unita, più solidale e più prospera. Más fuerte, más unida, más solidaria y más próspera. Sono 11 paesi europei che ad inizio ottobre si sono detti pronti a far scattare una cooperazione rafforzata per introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax. In Italia i tecnici del Ministero dell'Economia sono alle prese con l'analisi delle possibili conseguenze dell'imposta, inserita fra le proposte della legge di stabilità e attualmente all'esame della Camera. Stando alla versione presentata dal governo Monti, la Tobin Tax entrerebbe in vigore il 1 gennaio 2013. Da quel momento si applicherebbe un'imposta di bollo dello 0,05% sulle compravendite di azioni e sui derivati, nel caso in cui almeno una delle due controparti sia residente in Italia. Se da un lato il coro dei favorevoli vede nel balzello uno strumento per far pagare anche alla finanza il prezzo della crisi, dall'altro c'è chi teme gli effetti distorsivi ed elusivi del nuovo regime fiscale, come la fuga delle transazioni finanziarie verso quei paesi che non applicano ancora l'imposta, che danneggerebbero il sistema economico italiano andando a colpire anche i piccoli risparmiatori. Sentiamo l'opinione del trader indipendente Luca Barillaro, che fra le altre cose fa un parallelo con l'esperienza francese. La tassa francese è in vigore dal 1 agosto. Sta passando il messaggio per cui sembra quasi che il settore finanziario abbia accettato la tassa sulle transazioni finanziarie a cuor leggero. Questo non è vero, è una tassa iniqua, ma visto che il settore è un settore per definizione pragmatico e ci è stato fatto intendere che c'è bisogno di 1 miliardo di gettito e c'è bisogno di un provvedimento in stile effetto annuncio per dare un po', per accontentare una certa parte politica, e il settore si sta adoperando per cercare di non avere degli effetti negativi sull'economia reale poi del settore finanziario nazionale, perché non dimentichiamo che il provvedimento così come è congegnato colpisce i residenti e non i non residenti. Ciò detto, perché la contrapposizione? Perché prima di tutto dall'esperienza francese, in vigore dal 1 agosto, si è notato già un calo degli scambi del 30%, tre titoli su tutti, Total da 6 milioni e mezzo di azioni scambiate a 4 milioni e mezzo nella media giornaliera, BNP da 8 a 5 milioni, AXA da 12 a 8 milioni. Ma prima dell'introduzione, Barillaro, le chiedo, mi scusi se la interrompo, c'è stato lo stesso dibattito in Francia? Assolutamente no, perché c'è stata una velocità fulminea di applicazione che non ha dato nemmeno il tempo al settore finanziario di opporsi o meno. C'è da dire che l'applicazione francese è tutta peculiare, perché viene tassata solo le transazioni nette a fine giornata, quindi l'intraday non è tassato, non sono tassati i derivati e vengono tassati solo gli scambi su titoli che capitalizzano più di 1 miliardo di euro. E su questo tema sentiamo anche Vincenzo Tedeschi, direttore generale in Italia dell'istituto olandese Bink Bank. Visto dall'Olanda che è una nazione contraria alla Tobin Tax e che non la applicherà, Bink ha pubblicato l'anno scorso un position paper mostrando anche la sua contrarietà alla tassa e ne ha discusso con le autorità olandesi e devo dire che lì in Olanda c'è stata una discussione costruttiva. L'Olanda è contraria, è fuori dal gruppo degli 11 favorevoli che andranno ad applicarla, ma sostanzialmente perché se la tassa nasce con l'intento di ridurre la speculazione, io sono d'accordo con gli ospiti in studio, non è almeno questa la modalità di attuazione, perché se vogliamo colpire la speculazione, ad esempio, non si capisce come mai la tassa venga applicata ai piccoli risparmiatori e non solo magari agli intermediari istituzionali, oppure perché ad esempio vengano tenuti esenti i titoli di Stato che sono l'oggetto principe, soprattutto ultimamente, della speculazione. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.